Il gastronauta di Davide Paolini. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai, eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Buon anno a tutti i radioascoltatori di Radio 24, buon anno a tutti i gastronauti, buon anno a tutti coloro che magari si accingono ad andare a tavola e probabilmente anche a sprecare molto di quello che troveranno sulla tavola. Ebbene, è ormai un rito quello di Natale, è l'ultimo dell'anno, è il primo dell'anno, di fare tanti piatti in abbondanza, di fare tanti acquisti che poi magari vengono buttati. Allora noi abbiamo pensato di fare una trasmissione. Sì, è vero, voi andrete a tavola, mangerete delle leccornie molto, molto interessanti, molto appetitose, però bisogna anche ricordarsi un secondo che lo spreco fa molto male, e quindi perché sprecare? Allora abbiamo pensato di fare una trasmissione e darvi dei consigli su come recuperare quello che avete acquistato e di non buttarlo nell'immondizia, nei cestini, ma di farne qualcosa di positivo. E allora saranno con noi tutta una serie di ospiti proprio per questo, per darvi dei consigli, per così insegnarvi anche a come si possono riciclare certi prodotti. E allora iniziamo questo giro di, chiamiamoli così, di esperti, ma anche di studiosi di questo fenomeno appunto del riciclo e di non buttare via tutto quello che si compra in più. E allora cominciamo da un personaggio che ormai, diciamo, molto noto nel mondo internazionale, non solo nel mondo italiano, che è il professor Segre dell'Università di Bologna, che è presidente di Last Minute Market, questa, diciamo, organizzazione che da anni cerca di recuperare appunto il possibile. E con lui, tra l'altro, ha scritto anche un libro, quindi si è messo a fare anche il cuoco e lo scrittore, proprio per dare un aiuto a coloro che avanzavano tante cose e non sapevano cosa farne, ed è la cucina senza sprechi. Ebbene, qui ci sono tutta una serie di ricette, ora ne parleremo appunto con Andrea Segre di questo libro, ma non solo. Io prima ad Andrea voglio chiedere questo: durante le feste natalizie, durante il primo dell'anno, l'ultimo dell'anno, io credo che ci sia così uno spreco enorme, forse è il picco maggiore dell'anno. E Andrea, è così? Non c'è dubbio, Davide, è così. Intanto buon anno a te e a tutti i radioascoltatori. È il periodo dell'anno in cui ci imbottiamo, diciamo, di tutto, anche di cibo, e il picco della spesa alimentare, nonostante la crisi, e tutto sommato anche quest'anno è andata così. E allora lo spreco in realtà la fa da padrone, perché l'eccesso, diciamo, di acquisto che poi in qualche modo finisce alla fine nella spazzatura, e adesso andiamo a rovistare noi che siamo un po' dei ricercatori sul campo cosa si trova nei bidoni della spazzatura, ed è incredibile, perché alla fine c'è quel delta, come posso dire, lo spreco cos'è? Qualcosa di ancora buono che non hai consumato, che hai gettato via, non è un rifiuto in realtà, ma diventa rifiuto. E allora, certo, hai voglia di dire adesso lo ricicliamo, gli avanzi, e infatti qualche consiglio lo possiamo dare, però quello che noi cerchiamo di fare è agire a monte, cioè sprecare di meno significa essere più consapevole, acquistare nel modo giusto quello che ti serve e cercare di mangiarlo tutto, anche gli scarti, anche quello che apparentemente non sarebbe consumabile, e ci sono tante possibilità. Ecco, tu hai distinto giustamente tra spreco e rifiuto. Io credo che durante, diciamo, questo periodo di feste si acquistano anche delle cose molto interessanti da poter essere riciclate. Penso, non lo so, al panettone, per esempio, che può essere riciclato. Penso a tanti altri prodotti, il cappone, cioè tutte le carni con cui si fa il bollito, il brodo, quindi secondo me il pesce, quindi ci sono tantissime cose che si possono ben recuperare. Assolutamente sì, fra l'altro, ecco, tu hai detto che ho scritto un libro di cucina, è vero, ma le ricette, lo dico subito, non sono mie, perché certo, non sarei mica credibile. Lo immaginavo. Le ha fatte Lorenza Pliteri, che di queste cose si intende. Io ho fatto le prime pagine lunghe, articolate, è un piccolo manuale di economia e di ecologia domestica, quindi è uno strano libro di cucina, perché il claim, come si dice oggi, non è mangiare e dimagrire, che mi sembra abbastanza difficile, ma mangiare bene tutto, anche gli scarti, e far dimagrire il bidone della spazzatura, che questa è la nostra sfida, diciamo, per il 2013. E il panettone fritto è una delle ricette, è il modo per riciclarlo: 4 fette di panettone, burro, zucchero, cognac e via, una bella frittura, ed è molto buono, provato. Andrea, voglio chiederti questo, rientriamo più sul tuo campo, quello diretto, nonostante tu abbia dato ora doti di cuoco, no, volevo tornare sul tuo campo diretto per dire, diamo dei consigli ai nostri radioascoltatori, perché non tutti sono in grado di diciamo riciclare lo spreco, quindi non tutti diciamo possono rifare ricette con quello che hanno comprato in più o con quello che è avanzato. Cosa possono fare? C'è qualche modo, che ne so, di recuperare appunto quel di più invece di buttarlo? Ma guarda, ecco, a parte ecco la cucina, diciamo, degli scarti, appunto, che potrebbe essere anche, per dire, le foglie di insalata, delle carote piuttosto che i ravanelli, si possono fare tante cose, ma in realtà il vero problema e la vera nostra azione deve essere a monte, cioè prevenire lo spreco, perché recuperarlo, come noi facciamo la Sminut Market, fa questo, recupera ciò che è ancora buono e lo dà chi ha bisogno. Fra l'altro questo è un periodo, è vero che siamo, diciamo, all'inizio di un anno nuovo, ma ancora un periodo festivo, natalizio, dove il legame, la relazione, il dono è importante, però comprare l'essenziale, dando, diciamo, la preferenza alla qualità piuttosto che alla quantità, se possibile acquistare meno ma più spesso, è ciò di cui si ha bisogno, pianificare la nostra spesa, perché questo eccesso poi alla fine effettivamente finisce stipato nel frigorifero, che, ecco, lo ricordo, sarebbe uno strumento per conservare, non per ammassare, perché diventa una sorta di tomba, di anticamera dello spreco. E poi anche, ecco, surgelare per esempio gli avanzi del cibo, perché potrebbero poi essere usati come delle porzioni monopasto, fino a riporre, per dire, le verdure nella parte bassa del frigo. Lo dicevo prima, il frigo ha degli scomparti, la frutta a temperatura ambiente, e insomma siamo più consapevoli, perché poi alla fine questo aiuta l'ambiente, che interessa a tutti, anche poi la nostra salute, e perché no, il portafoglio, certo, mano che si prospetta ancora, come magro, dire, molto magro. Molto magro. Bene, grazie a Andrea Segherello, ripeto, il suo libro Cucinare senza sprechi, ma di Segre ricordo soprattutto il lavoro di Last Minute Market e anche così di esperto internazionale di, diciamo, di tutto quello che riguarda appunto gli sprechi. Grazie Andrea Segre, buon anno grazie di nuovo. Grazie a te Davide, buon anno anche a te. Bene, ora andiamo da un esperto più che altro appunto di recupero, andiamo da un personaggio che, diciamo, che invece insegna a fare ricette per recuperare, e quindi entriamo un po' più nell'argomento della cucina. Abbiamo con noi Lisa Casali. Lisa Casali è nota per appunto aver scritto molti libri su questo argomento, anche libri molto particolari, appunto Cucinare con lavastoviglie e tante altre cose. Buongiorno Lisa e buon anno. Lisa, io vorrei da te due ricette per i nostri radioascoltatori di recupero di, diciamo, di prodotti, di qualcosa che si mangia durante questo periodo delle feste e che appunto si spreca. Dunque, beh, diciamo, come raccontavate prima anche con Andrea Segre, sicuramente durante le feste è un momento in cui si fa tanta spesa, si cucina molto e si producono anche molti, molti scarti. Se quello che abbiamo acquistato è fresco e quindi anche le parti di scarto possono essere utilizzate, possiamo veramente sbizzarrirci. Se vogliamo proprio rimanere in tema di ingredienti delle feste, prima c'era una ricetta sul panettone, adesso devo proporne una sul pandoro, molto semplice. Certo. Quindi se rimane un po' di pandoro lo tagliamo a fette sottili, lo schiacciamo con un mattarello e poi lo immettiamo all'interno degli stampini e lo facciamo cuocere in forno intorno a 150 gradi per 15 minuti. quello otteniamo dei cestini che possiamo riempire ad esempio di una coulisse di melagrana, che non è altro che melagrana cotta per 10 minuti con un cucchiaio di miele, quindi molto semplice, e riempiamo i cestini e questo diventa un dessert, se volete, insomma, anche carino, alternativo e con un costo molto basso. Tra l'altro la melagrana è anche un frutto di stagione, ipervitaminico, perché poi diciamo che questa è anche l'occasione per cambiare le proprie abitudini e cominciare l'anno nuovo anche in maniera salutare, cercando di magari modificare qualche piccola abitudine che poi si può correggere. E poi un altro ingrediente che si spreca tanto è il pane. Ci sono tante ricette della tradizione italiana che prevedono l'uso del pane. Potremmo fare ad esempio una lasagna di pane, quindi semplicissima, magari c'è rimasto un po' di ragù, un po' di brodo, e facciamo vari strati di pane, quindi utilizzando ad esempio l'avanzo del ragù, ma anche se è rimasto del carne, dal bollito, lo possiamo aggiungere al sugo di cottura e poi lo facciamo come una lasagna normale in forno. Semplicissimo, è un costo zero. Senti Lisa, te ne chiedo una terza, se è possibile. C'è anche molta carne durante il periodo delle feste, capponi, polli, bollito. C'è modo appunto di recuperare un piatto con diciamo questi ingredienti? Beh, sì, sicuramente, diciamo, già nella tradizione italiana abbiamo una grande varietà tra polpette e polpettoni, e so che tu tra l'altro sei anche un esperto, Davide. Una ricetta ad esempio carina può essere trasformare gli avanzi di carne in una pizza. Ah, fantastico questo. Quindi ad esempio li tagliamo al coltello finemente, tutti gli avanzi, quindi anche carni cotte, e aggiungiamo diciamo un uovo per circa 250 grammi di carne, un po' di parmigiano e poi rivestiamo il fondo di una teglia. Possiamo condire a piacere, magari con scaglie di formaggio, se vogliamo anche della salsa di pomodoro, condiamo come se fosse una pizza. E poi lo cuociamo in forno e sono sufficienti 15 minuti a 160 gradi. Bene, lo trovo veramente molto interessante e molto appetitosa, devo dire, questa ricetta di trasformazione in pizza, anche molto molto fantasiosa. Lisa, io ti ringrazio perché hai dato tre ricette veramente che possono essere molto utili. Ti auguro buon anno e ti auguro anche di scrivere un altro libro, magari non solo di recupero, ma anche di un qualcosa, come hai dimostrato ora, molto più fantasioso. Grazie, grazie, ma il recupero sicuramente è importante perché pochi se ne occupano, quindi continua su questa strada perché almeno così viene eliminato buona parte dello spreco. A presto! E buon grazie, anno. Grazie a te. Buon anno. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. Ecco, ecco ancora, sentiamo queste bellissime canzoni così che invitano anche a mangiare. Noi ci stiamo occupando di spreco e giustamente, come ha fatto notare il professor Segre, distinguiamo tra spreco e rifiuto, quindi spreco è quello che viene comprato e che rimane, che quindi poi alla fine finisce nel cesto delle immondizie, quindi questo deve essere sempre più evitato, specialmente in questo periodo e in questi periodi, ma direi sempre. Io ora ho in linea un toscanaccio famosissimo, ma voglio ricordare la cosa che mi viene in mente in questo momento, è che sono contemporanei due personaggi, appunto, che uno è andato a sciacquare panni in Arno come Pellegrino Artusi e l'altro invece ha scritto L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, ed è Olindo Guerrini, detto lo Stecchetti. È veramente curioso che sono quasi coetanei, tutti e due romagnoli, uno pubblica un libro per ingrassare e l'altro sicuramente un libro per recuperare, quindi vuol dire che anche a fine Ottocento esisteva sempre questo problema dello spreco e già Olindo Guerrini se lo poneva. Buongiorno Fabio Quicchi. Buongiorno a te Davide, come stai? Buongiorno a tutti voi e buon anno. Buon anno anche a te Fabio. Senti Fabio, volevo chiederti, stiamo parlando appunto di dare dei consigli per sprecare meno, perché credo che sia veramente un fatto morale questo, oltre che economico. E allora, la cucina toscana, di cui tu sei un grandissimo interprete, diciamo che è all'avanguardia di questo, perché molti piatti sono veramente piatti di recupero. Credo che sia la cucina che più di ogni altro ha indicato questa strada, oltre ovviamente avere dei piatti strepitosi, per carità, nulla voglio togliere alla qualità, però devo dire che c'è sempre stata questa coscienza del recupero. Ma sì, è proprio una saggezza più che una coscienza, tramandata di generazione in generazione. Anni fa, badai a dire, in un convegno a San Francisco, ero in mezzo a degli amici, intendiamoci, così scherzando gli dissi: voi siete la cultura del frigorifero, noi siamo la cultura della dispensa. E poi durante il convegno snocciolai questo perché. Noi negli ultimi 20 anni ci siamo fatti crescere nelle case, va bene, tre cose, Davide, concorda con me, ti prego. La televisione è diventata una sorta di maxi schermo gigante, i divani opposti sempre alla televisione, e poi è cresciuto in maniera incredibile il frigorifero. Ormai entri nelle case, trovi questi quattro ante che sputano ghiaccio, che ti danno tutto, qualcuno anche parla, dove dentro si perde poi gran parte oppure una percentuale molto alta di cibo. Allora fate tornare il frigorifero a una dimensione corretta, deve essere uno strumento di lavoro, il giusto e il necessario, per l'amor del cielo. Nelle case deve soltanto ingrandire nei prossimi 20 anni. Facciamo questo fioretto di inizio anno. I tavoli delle cucine e le sedie devono aumentare. Quanti ragionamenti si fa intorno a un tavolo approfittando delle amicizie, dei figli, dei padri, delle madri? Mi raccomando. La Toscana... Eccomi, sì. Dimmi Davide. No, volevo solo dirti, e ti interrompo solo per questo, sì, che tu hai dato una definizione secondo me straordinaria. Ti consiglio un libro. Tu ultimamente hai scritto dei libri di grande successo, ma sicuramente se tu scrivessi un libro, La cultura del frigo e la cultura della dispensa, è un titolo veramente molto attraente, quindi ti do questo assist. Grazie, sei delizioso. Di fatto lo sto già scrivendo. Ah, allora. Mi hai bruciato, ma hai fatto un'anticipazione. Beh. Ma guarda, ma perché sinceramente, se ognuno di noi evita di pensare che sia facile retorica pensare le merende che le mamme ci facevano nei bei tempi passati, non è retorica, è un progetto politico per il futuro. Allora non è dover recuperare il cibo che noi dobbiamo pensarlo così, dobbiamo pensare che è una progettazione. Quando uno fa una pasta e fagioli, o per meglio dire cuoce dei fagioli, cosa si deve fare con quell'acqua? Buttarla via? Cosa si deve fare con l'avanzo del fagiolo? E con quella cotennina di prosciutto che ci ha cotto dentro, cosa ci posso fare? Sono degli esempi quelli che sto facendo. Quando qualcuno mi dice che ha poco tempo in cucina e magari allunga le sue mani sugli scaffali luminescenti comprando scatolame di cartone surgelato dove paghi anche l'umidità ghiacciata, e non faccio nomi ma tu mi hai inteso, e poi mi si giustifica con la mancanza di tempo, io gli chiedo per favore di riflettere che alle volte, progettando anche un etto in più di pasta, e i napoletani ce lo insegnano, il giorno dopo, la sera stessa, si può fare una frittata di pasta avanzata meravigliosa. Ma pensa agli spinaci che si possono risaltare dentro un riso, o dentro anch'essi una pasta, o dentro una frittata, e via avanti, e via avanti. E il pane, non ne parliamo del pane. Non ne parliamo del pane, capito? Ma in Toscana, ormai poi chiamati proprio al vertice della toscanità, appunto, le ribollite, i docet, il lesso rifatto con le cipolle è un'altra storia. Ma torno a dire, ma quando vi avanza il lesso che avete rifatto con le cipolle, cioè fate il lesso per il brodo, per il bollito, poi vi avanza, lo rifate con le cipolle, e quando vi avanza, quando vi avanza, mi raccomando, frantumatelo e condiscici dei paccheri, perché... Ecco, tu hai parlato di lesso rifatto, e devo dire che appunto viene chiamato, e non si sa perché, Francesina, quindi a Firenze, non si sa perché, perché questo nome, io ho cercato di recuperare questo nome, finalmente... Ci sono varie interpretazioni, varie interpretazioni. Io sai che gioco con divertimento sempre contro la cucina francese, e allora dico che è stato un nostro vezzo fiorentino di spregiare i francesi, che così si muovano sulle loro soup d'ognon in memory che la carabaccia è roba di casa nostra. Certo, certo, ma anche tante altre cose sono roba di casa nostra. Però ecco, la carabaccia, spiega un secondo cos'è la carabaccia. Senti, al di là della carabaccia, io ti parlo della carabaccia, che ce ne sono tantissime versioni, sì. Ma mia madre, grazie a Dio, ne fa una che è veramente commovente. E ho sempre detto, giusto appunto ad amici francesi, quando volete 3-0 dalla zuppa di cipolle di mia madre, ditemelo che vi invito a casa e ve la faccio mangiare. Mia madre parte da un buon brodo, pensa un po', giusto appunto, fatto con il cappone, fatto con la coda del manzo, bollito lentissimamente in modo che nello strato dei grassi che subito si viene a formare sulla superficie dell'acqua del brodo, così con questo blu, blu, blu, blu, tutti gli aromi abbiano il tempo, proprio attraverso la bollitura leggerissima, di incastonarsi nelle parti grasse, che poi dopo, diciamo, nelle parti meno pregiate, dopo che vengono freddate, si sgrassa, ma le parti più pregiate vengono lasciate e danno a quel brodo pieno di sedano, di se è primaverile poi di basilico, ma se è invernale, come spesso capita in questo caso, c'è un chiodo di garofano, le carote e mi raccomando, le cipolle bruciacchiate, perché per fare un grande brodo bisogna avere il coraggio di questo atto alchemico, bruciare sopra il fuoco vivo la prima pelle delle cipolle. Questo conferisce al brodo una potenza che se non viene fatta questa operazione non ha. Ecco, ecco, allora, io devo dire che tu hai raccontato appunto questo brodo meraviglioso, quasi lo vedessimo tutti, credo che i nostri radioascoltatori lo abbiano visto, e devo dire che appunto questo brodo può essere servito senza le cipolle, probabilmente per i cappelletti, i tortellini o quant'altro, e poi può essere utilizzato per la carabaccia, quindi esatto, anche questo diventa un piatto di recupero. Assolutamente, ma aspetta, la mia finita, perché una volta poi stufate le cipolle e vi amalgamate con questo brodo, servite con il pane raffermo e belle manciate di parmigiano, guarda, può creare dell'imbarazzo. Le cipolle che devono essere prima fatte appassire nel burro, ecco che arriva il calcio di rigore ai francesi, noi toscani appassiamo nel burro, sì, noi toscani appassiamo anche nel burro, i nostri crostini arrivano al vertice quando il soffritto di partenza è fatto nel burro, ma questo è un altro discorso ancora. Bene, io ti devo lasciare perché lasciamo a metà così, lasciamo alla fantasia dei nostri radioascoltatori, perché devo passare la linea alla regia. Comunque ti ringrazio e ti auguro un felicissimo anno 2013 nella tua Cibreo Square, che io chiamo così, sicuramente di grande successo. Ciao. Grazie Davide, ciao, a grazie presto, a voi. A ciao, presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. Cari gastronauti, di nuovo buon anno. Bene, questa, diciamo, questa canzone di Rita Pavone torna sicuramente bene, perché stiamo parlando appunto di recupero dello spreco, recupero di quello che avanza. Quindi cosa c'è di meglio di una pappa col pomodoro? Strano che il nostro amico Fabio Picchi del Cibreo di Firenze, che diciamo nel suo ristorante serve 365 giorni all'anno sia pappa al pomodoro che ribollita, non abbia parlato di questi piatti, ma giustamente ne abbia dati altri. E allora continuiamo però questo giro per capire, per darvi dei consigli appunto di non sprecare, di non buttare, quindi prima di arrivare al cestino di fermarsi un secondo, di riflettere che cosa si può fare, oppure di non comprare, come ha detto giustamente Andrea Segre, probabilmente bisognerebbe intervenire prima, quindi comprare le dimensioni giuste, comprare appunto non comprare di più e cercare di appunto di migliorare la spesa, e per non anche buttare dei soldi in questo periodo. E allora ora ci facciamo consigliare da una blogger, Verdiana Amorosi. Buongiorno Verdiana. Buongiorno a tutti, buon anno. Buon anno. Allora Verdiana, io volevo sapere, volevo che lei ci raccontasse, magari un paio di ricette che sono quelle tipiche degli avanzi appunto di Natale, l'ultimo dell'anno, non lo so, ad esempio il cappone, la carne che avanza, ecco, cosa si può fare? Sì, beh, sicuramente ci sono, diciamo, tanti spunti che possono, tante idee, piccoli trucchetti che possiamo utilizzare per recuperare appunto tutti i resti, tutti gli avanzi appunto di cibo che cuciniamo in grandi quantità proprio in occasione delle feste, in particolare del Capodanno, no? Perché sono lunghe cene che sembrano non finire mai. Poi inevitabilmente ci sono questi avanzi che non sappiamo come riutilizzare. Beh, sicuramente tutti quanti oggi avremo un po' di pesce avanzato, almeno dall'antipasto, dal secondo di ieri, insomma, del cenone di ieri. Quindi, per esempio, con il pesce, che sia salmone, che sia orata o spigola, possiamo ad esempio sbriciolare il pesce cotto avanzato, indipendentemente appunto dal tipo di pesce che abbiamo, unirlo per esempio ad un sugo di pomodoro molto semplice, magari aggiungendo dell'origano o del peperoncino, e farlo saltare in padella e fare un ragù per la pasta, un ragù di pesce molto semplice, insomma, molto delicato, proprio per non appesantirci dopo appunto le mangiate dei giorni scorsi. In alternativa possiamo sempre sbriciolare il pesce avanzato e unirlo a delle verdure lessate, ad esempio tagliate a cubetti molto piccoli, e aggiungere della maionese oppure in alternativa dello yogurt bianco al naturale, per fare una sorta di insalata russa alternativa, insomma, ecco, una sorta di antipasto, anche può essere servito come secondo piatto alternativo, oppure semplicemente unirlo con del pane ammollato per farne delle polpette, insomma, molto leggere. Poi avremo sicuramente del cotechino o della carne, immagino. Certo, come no. La serata appena trascorsa. In questo caso possiamo tagliare le fette di cotechino, insomma di carne, quello che abbiamo, a dadini, metterli in padella e farli saltare con un filo d'olio, con dei pachino magari tagliati a metà, e possiamo utilizzare questo sughetto per condire la pasta, magari unendo delle scagliette di parmigiano tagliate molto sottili. Oppure possiamo farne delle crespelle, possiamo sbriciolare le fette di cotechino, unirle all'uovo sbattuto e a un po' di latte, dell'amido di mais o della farina. Io qui non riporto le quantità perché poi chiaramente dipende anche dalla quantità degli avanzi che abbiamo, certo. Però diciamo che per 2-3 etti di cotechino possiamo utilizzare 2 uova, un mezzo bicchiere di latte, un cucchiaio abbondante di amido di mais o farina, aggiungere un po' di erba cipollina o le erbette che preferiamo, e mescolare il tutto e farne delle crepe salate, quindi insomma anche molto semplici e molto però gustose allo stesso tempo, insomma un modo diverso di gustare il cotechino, insomma, o la carne che abbiamo. E poi sicuramente ci saranno in tutte le case degli italiani delle lenticchie, perché appunto è l'ultimo piatto, certo, che viene mangiato dopo la lunga cena di Capodanno, quindi in varie forme avremo delle lenticchie. Possiamo metterle in pentola, allungare tutto con un po' d'acqua e diciamo proseguire un po' la cottura fino ad ammorbidirle, fino a fare una sorta di crema. Eventualmente possiamo aiutarci con un frullatore, frullare il tutto e ottenere una crema per condire appunto la carne avanzata, quindi per dare insomma un gusto diverso alla carne arrosto che abbiamo preparato, oppure semplicemente spalmare questa crema di lenticchie su delle bruschette, quindi magari come antipasto. Oppure, qui magari i vegetariani saranno contenti, possiamo fare degli hamburger o delle polpette, perché appunto otteniamo una crema, appunto frulliamo queste lenticchie, aggiungiamo del parmigiano grattugiato, delle spezie ed erbette a piacere, e possiamo farne appunto degli hamburger o delle polpette da ripassare così in maniera molto semplice con un filo d'olio in padella. Quindi sono dei piccoli. Bene. Lei è stata bravissima, Verdiana. Io voglio anche ricordare che lei ha un blog che si chiama lacucinadiverdiana.it, magari in questi giorni appunto pubblicherà anche delle ricette, quindi se qualcuno volesse andare su questo blog probabilmente troverà altri consigli. Io la ringrazio e le auguro buon anno. Grazie altrettanto, buon anno a tutti. Buon anno. Bene, ho sentito così la voce polpette mi richiama un personaggio, e forse questo sarà molto curioso quando lo annuncerò, perché qualcuno dirà: va bene, un grande chef come Bruno Barbieri, ormai divo televisivo con MasterChef, si è occupato di polpette. Sì, è vero, ha scritto un libro bellissimo, Polpette che passione, però io voglio fare anche una chiacchierata con il mio amico Bruno, appunto, visto che siamo il primo dell'anno, visto che faremo anche così dei propositi per il prossimo anno, parleremo anche di cibo un po' più largamente. Buongiorno Bruno. Buongiorno, buon anno a tutti, buon anno a te, buon anno a tutti quelli che ci ascoltano. Speriamo che sia un 2013 meraviglioso, pieno di tantissime belle cose, no? Bruno, senti, ma un grande chef qualche volta recupera, cioè recupera... Assolutamente sì. Guarda, io ti voglio dire una cosa, ti do una chicca in anteprima per il 2013. È appena andato in ristampa, edito da Edizioni Magazine, un libro di Olindo Guerrini, certo, che fu scritto nel 1916, dove io ho fatto una bellissima prefazione che si chiama... L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa. Bravo, ce l'ho sotto mano, bravissimo, una vica. Tra l'altro Olindo Guerrini è romagnolo come me, quindi io esatto, lo amo molto perché è un poeta dialettale. Guarda, romagnolo, lo Stecchetti. La cosa incredibile di questo libro è che oggi, nel 2013, è attualissimo, voi per tutte le situazioni italiane nel mondo, l'arte di riutilizzare gli avanzi è incredibile. È chiaro che questo è stato scritto in un modo molto, diciamo, antico, tra virgolette, roba del 1916, però se lo leggi e vai a vedere le ricette, vai a vedere le cose che bisogna naturalmente un pochino interpretarle, perché la cosa di questo libro, la caratteristica di questo libro è che non ci sono dei dosaggi, perché nell'arte di riutilizzare gli avanzi i dosaggi non esistono, cioè assembli delle cose, ti inventi delle cose con quello che c'è nel frigorifero. Devo dire che è magnifico. Ma io devo dire che ce l'ho sotto mano e voglio anche così fare una citazione, perché nella prefazione, quella antica, il buon Olindo Guerrini, detto lo Stecchetti, poeta verista, dialettale romagnolo anche, e racconta del suo rapporto con Artusi racconta che in Italia esistono tanti libri di cucina ma non esiste uno di avanzi, mentre esiste in Francia. E allora lui dice: per questo io ho chiesto consiglio all'Artusi, il quale mi ha detto di andare avanti e di farlo. Quindi è bello anche questo carteggio tra questi due, molto divertente, anche perché Guerrini, diciamo, era un poeta, era uno scrittore, cioè non era un cuoco. Però era forse uno dei primi, diciamo, che andava a fare, che faceva le guide, che aveva inventato le guide, perché lui girava per ristoranti, scriveva di ristoranti, quindi voglio dire, già aveva, era un giornalista come te, molto attento, molto attento. Ma devo dire che è veramente una coincidenza, nel senso che in questo periodo di fine Ottocento Pellegrino Artusi non era un cuoco, Olindo Guerrini non era un cuoco, quindi scrivevano di cucina due, diciamo, osservatori, due intellettuali, tra l'altro, esatto, tutte e due. E invece oggi è cambiato tutto il mondo, oggi scrivono esatto, tutti di cucina, quindi esatto, diciamo che c'è stata una popolarizzazione sicuramente molto importante. Però hai fatto piacere a ricordare che esce questo libro, perché secondo me questo libro è importante soprattutto in questo momento in cui si parla sempre di crisi economica, di come risparmiare, e qui veramente c'è una cucina al risparmio. Sono molto d'accordo su questo, sono molto d'accordo. Poi non dimentichiamo, tu l'hai citato prima, il mio libro che è uscito un po' di tempo fa, Polpette che passione, perché devo dire che l'arte del riciclo del cibo alla fine non è, cioè è divertente, perché comunque ti dà la possibilità di giocare col tuo frigorifero, ti dà la possibilità di giocare con le cose che hai in casa, assemblare gli ingredienti, unire, magari qualche volta si possono fare anche degli sbagli, perché sai, non è facile, però... Devo dire, che cosa c'è di più buono di una tagliatella mangiata, attenzione al ragù, mangiata il giorno dopo e fritta? Ecco, cioè, guarda che ci sono delle cose veramente incredibili. Allora, qui voglio raccontare un aneddoto mio personale. E io da bambino amavo moltissimo appunto le cose fritte, e mia nonna spesso faceva i tortelli con le patate, e io ne lasciavo sempre 4 o 5, ma non perché non avevo più fame, ma perché alla sera volevo che mi fossero fritti, e quindi esatto, era la mia passione questa, così come il minestrone a me piace il giorno dopo. Assolutamente sì, ma sai, ci sono delle cose, gastronomicamente parlando, anche le lasagne sono buone il giorno dopo, cioè quando rimangono lì un po', ci sono delle cose in cucina veramente che vanno davvero deliziate e mangiate il giorno dopo. Questo è fondamentale per tutto un sacco di cose, quindi l'arte del riciclo, attenzione, non è, perché poi comunque bisogna fare attenzione alla spesa, perché sai, noi oggi andiamo al supermercato o dal negoziante sotto casa, compriamo le cose a vanvera, basta riempire il frigorifero, poi ci accorgiamo che abbiamo il frigorifero pieno e tante cose vengono buttate via, invece no, si possono anche riutilizzare, ma l'idea di riutilizzare proprio il cibo già cotto, già preparato, già fatto magari qualche giorno, è molto divertente e molto interessante. Poi cosa c'è di più buono di una polpetta fatta con l'esso rimasto il giorno prima, non so, degli involtini fatti con il pollo rimasto il giorno prima, battuti, ci sono un sacco di cose divertenti. La cucina del riciclo è una cucina, secondo me, molto creativa. Ecco, allora io voglio per salutarti e augurarti buon anno e credo anche un grande successo con MasterChef. Voglio ricordare appunto il tuo libro che sta per uscire con la tua prefazione, L'arte di utilizzare gli avanzi della mensa, edito da Magazine, ho sentito? Sì, giusto? Magazine, sì. Magazine Edizioni, sì, sì. Di Forlì. E voglio, vado a nozze, sono contentissimo che ci sia un editore di Forlì che quindi ripubblica questo. E poi voglio ricordare l'altro tuo libro, Polpette che passione, perché sicuramente lì dentro ci sono decine e decine di ricette appunto per riciclare. Fantastico. Io ti auguro un grande successo ancora, caro Bruno, e un buonissimo Ciao, 2013. Grazie a te, a tutti i tuoi radioascoltatori, ci vediamo su Sky 1 tutti i giovedì sera alle 21:10. Quanti cibi ci sono nelle canzoni, ce ne sono tantissimi, il cibo è sempre il protagonista, molte volte in positivo, molte altre volte in negativo, però diciamo che è una questione appunto che ci troviamo di fronte tutti i giorni, quindi è una questione, come si dice, di vita sicuramente. E come abbiamo sentito all'inizio dal nostro amico professor Segre, diciamo che di spreco ce n'è tanto e sicuramente se si potesse così intervenire prima, giustamente, perché bisogna intervenire sulla spesa sicuramente, diciamo non esagerare sugli acquisti, specialmente in questo periodo, essere molti contenuti, ma ormai diciamo le feste se ne sono quasi andate, ci rimane solo questa giornata, ci rimane la Befana, quindi diciamo quel che è stato, però sicuramente speriamo che si sia stati molto più consapevoli sulla borsa della spesa, perché i dati appunto dello spreco sono davvero, davvero enormi in tutto il mondo, quindi ci devono sicuramente far riflettere. Bene, abbiamo sentito diversi nostri ospiti, diciamo da Segre che ci ha dato dei dati, ci ha dato delle informazioni su quello che succede, diciamo degli esperti di cucina che ci hanno insegnato come a riciclare appunto quello che avanzava. Però devo dire che la cosa che mi ha molto colpito è stata questa idea di Fabio Picchi, proprietario del Cibreo di Firenze, anche ormai noto scrittore, quando dice: sostituiamo la cultura del frigo la cultura della dispensa. Ecco, credo che questo sia un punto molto, molto interessante, perché sicuramente il frigo ci fa sprecare molto di più. Se ci fosse la dispensa, fosse attenta, sicuramente forse si spenderebbe anche meno. Ma ora diciamo cominciamo a parlare di quello anche che si può fare in questo periodo, o quello che si è potuto fare in questo periodo. Abbiamo con noi Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, che attraverso una diciamo organizzazione, City Cibo, organizza a Milano il recupero, diciamo, di quello che potrebbe andare a finire sui bidoni della spazzatura. E allora chiediamo a Andrea Giussani se durante il periodo appunto natalizio e durante questo periodo si è potuto intervenire magari per salvare il salvabile. Buongiorno Giussani. Buongiorno a tutti. Noi innanzitutto operiamo tutto l'anno, quindi la nostra attività incontra la possibilità di recupero 365 giorni all'anno con il programma City Cibo, che è all'interno della grande rete del Banco Alimentare in Italia. Solo una parola sul Banco Alimentare, che recupera eccedenze e quindi ciò che sarebbe spreco dalla produzione e dalla distribuzione. Questo tutto l'anno, mentre City Cibo recupera ciò che andrebbe sprecato dopo non essere stato servito ma già cotto nelle grandi mense, comunità, catering in generale, ristoranti, e oltre a ciò recupera tutto il fresco che non viene utilizzato e quindi non servito ma ancora buono, in alcune scuole, in molte scuole e in molte grandi superfici della distribuzione. Quindi piatti cotti, piatti non serviti ma sempre utilizzabili, fresco, pane. Allora a Natale certamente ecco, questa cosa sarà enfatizzata, però come voi potete capire non è recuperabile dalle mense private delle famiglie, sono quantità irrisorie rispetto a un servizio molto costoso. Ecco, però voi date delle indicazioni anche di come recuperarlo nelle mense o d'altro, cioè date anche dei ricettari, quindi credo che questo possa essere, come posso dire, un viatico per anche insegnare alle famiglie durante questo periodo appunto di sprecare il meno possibile. Sì, è vero, il grande spreco lo fa la produzione e la distribuzione, se voi pensate che ogni anno si gettano in Italia circa 5 milioni e mezzo di tonnellate di cibo, non tutto recuperabile, ma di questo il 10% sarebbe recuperabile. Cosa fanno le famiglie? Sprecano, una nostra ricerca scientifica fatta col Politecnico dice che sprecano circa 42 kg pro capite per persona all'anno, equivalente a circa 120 euro. E immagino che la famiglia sprecca 350 euro all'anno di cibo. Immagino che larga parte appunto avvenga in questo periodo di tempo, sicuramente. Cioè, diciamo, di quei 42 chilogrammi, credo anche se penso a Trilussa molte volte appunto sul discorso delle statistiche, però credo che larga parte avvenga in questo periodo. Diciamo che ci sia un picco sicuramente molto importante di spreco. Noi diamo anche qualche consiglio, non è la nostra, diciamo, missione più grande, perché è quella di recuperare, non di dare consigli, però l'esperienza ci dice anche molte cose. Se vuole ne accenno qualcuna per una famiglia. Certo. Per esempio, usare la testa quando si fanno gli acquisti, quindi farsi trascinare più dalla ragione che non dall'occhio, dall'entusiasmo, dal voler comprare la cosa in più. E quando cucino, quando preparo la tavola, provare il più possibile a pensare al dopo, e quindi già predisporre contenitori, lo spazio in frigo, aspetti di possibile recupero, già preparandolo prima, non trovandomi impreparato dopo. Poi si potrebbe anche dire che posso trasformare lo spreco in una possibilità di socializzazione, di amicizia. E quindi invece di buttare invito qualche persona in più, magari abbiamo passato le feste, ma perché non continuare l'amicizia con qualcuno anche dopo le feste? Quindi direi aggiungi un posto a tavola, certo, plastico dopo le feste. Bene, io la ringrazio Giussani, grazie del suo intervento, le auguro buon anno. Grazie, ricordatevi sempre anche del Banco Alimentare, auguri a tutti. Grazie. Bene, ora continuiamo questo viaggio diciamo nei ricettari per non buttare quello che ci avanza. E ora andiamo da un'autrice di un libro molto, molto simpatico che si chiama Avanzi Popolo di Letizia Nucciotti. Buongiorno Nucciotti. Buongiorno a voi, auguri a tutti. Il libro si chiama L'arte di riciclare tutto quello che avanza in cucina. E quante cose avanzano, Letizia, a Natale all'ultimo dell'anno, vero? Assolutamente, ma come diceva il collega in precedenza, non è soltanto in questi giorni, c'è particolarmente un picco da questo punto di vista dell'accumulo e del conseguente possibile spreco, però è proprio quello che io ho cercato di raccontare in questo e anche in un altro libro che io ho scritto, sempre su questa tematica di un uso garbato ed oculato del cibo, vuole ricondurre un atteggiamento mentale proprio al prioritario nell'atteggiamento nei confronti del modo di fare la spesa e di conseguenza di utilizzare e stoccare i prodotti, perché solo se si recupera, a mio avviso, un atteggiamento di grande e profondo rispetto, che è del valore prima che economico, biologico, di grande lavoro che c'è alle spalle della produzione del cibo, poi si acquista un rispetto maggiore nel modo in cui si intende poi utilizzarlo e non sprecarlo, insomma. Lei ci dà qualche ricetta per recuperare? Io sento, di ricette te ne potrei dare tantissime, però appunto prima vorrei insistere proprio su questo aspetto perché di ricette mi sembra che ne vengono proposte tante e forse fin troppe, mentre l'atteggiamento principale secondo me è proprio quello di prendersi cura, come dicevano appunto gli illustri personaggi che mi hanno preceduto, sul modo proprio del criterio dell'acquisto e del criterio dello stoccaggio dei prodotti. Poi nell'ambito delle ricette mi dica lei in base a quale prodotto, perché le possibilità sono infinite, certo. In base a veramente a quello che apriamo, basta aprire il frigo, vedere cosa abbiamo dentro, e le ricombinazioni possono essere veramente infinite. No, ma mi piace insistere sul discorso, diciamo, prima di arrivare al frigorifero, cioè alla spesa. Ma spesa, purtroppo se ne parla molto poco. Diciamo che non esistono dei corsi, perché dovrebbero esistere, siccome esistono dei corsi di cucina, dovrebbero esistere anche i corsi di fare la spesa, perché questo è importante. La stagionalità, per esempio, la stagionalità è un fatto determinante. Molta gente non conosce più la stagionalità della frutta, della verdura, non conosce la stagionalità. Ad esempio, cioè, esiste una stagionalità del pesce e diciamo che credo che sia sconosciuto a 9 persone su 10. La stagionalità, diciamo, dà più freschezza al prodotto e fa risparmiare, perché certo. Nel periodo in cui c'è la stagionalità di un prodotto ce n'è maggior quantità e quindi i prezzi salgono molto meno. Non è che bisogna importare da paesi molto lontani nel momento in cui è stagione di frutta e verdura magari nel nostro paese. Quindi io credo che il discorso della spesa bisogna veramente imparare, perché c'è molta gente che non sa imparare a fare la spesa. Infatti io, in maniera molto pragmatica, molto elettrica, ho aperto questo libro con un metodo e una lista della spesa. Cioè ho detto, io la spesa la faccio così. E ho diviso per stagioni e ho diviso per prodotti, proprio perché secondo me una delle pecche fondamentali della perdita di memoria biologica che hanno prodotto i supermercati è proprio questa sensazione di disponibilità illimitata del prodotto e di tutto disponibile sempre, per cui chi ha perso contatto con il mondo contadino, con il mondo quello delle stagioni e delle produzioni, veramente compra i carciofi e gli spinaci a Ferragosto e d'inverno fa risotto con gli spinaci, con gli asparagi, per cui vedi questi contrasti che ti non solo costano di più, hai un prodotto appunto che ha viaggiato molto, che è stato necessariamente conservato con metodi e non lo so, anche chimicamente qualche volta per garantirne l'aspetto e la conservabilità, e magari si trascura il prodotto stagionale che viene certo. Magari da vicino e che ha anche qualità nutritive necessariamente più elevate. Senta, come si chiama questo libro? L'ultimo? Questo il mio primo libro si chiamava L'Antichef, sì. Che era proprio una piccola rivalsa della cucina quotidiana di origine contadine, montagnole come sono le mie, a dispetto di una cucina un po' troppo leziosa, un po' troppo lontana dalla realtà e certo. Dai tempi di possibilità di cucinare che spesso le persone hanno. Per cui ho voluto stigmatizzare il fatto che con pochi ingredienti si possono fare un'infinità di piatti solo ricombinando, come io ho sempre fatto l'esempio, le 21 lettere dell'alfabeto ti permettono di scrivere un poema, e così sono i pochi elementi fondamentali riconducendo la certo. Nostra tradizione italiana e contadina che solo ricombinati in maniera semplice danno grazie. Possibilità. Grazie a Letizia Nucciotti e le auguro un buon 2013, grazie. La saluto e a presto. Arrivederci, buongiorno. Bene, allora abbiamo chiuso questo viaggio e qualcuno avrà pensato che è una trasmissione bizzarra mentre si va a pranzo a festeggiare il primo dell'anno e si parla appunto di riciclaggio di quello che è avanzato. Ebbene, io credo invece che sia molto importante, ormai diciamo i fasti delle feste sono passati, oggi è l'ultimo pasto, se vogliamo, molto abbondante, molto festaiolo. Però secondo me vale la pena, proprio mentre succede questo, di ricordare che 42 kg a testa di rifiuti vengono così spediti nell'immondizia ogni anno da ogni singola persona, specialmente in questo momento che sicuramente non è tra i migliori. Allora, a questo punto non mi rimane altro che augurarvi un felice, felicissimo 2013 e darvi appuntamento appunto con le prossime puntate di quest'anno, e speriamo che sia un anno meno amaro di quello che è passato. Buon anno a tutti da Davide Paolini.